morti di mare, ne ho attraversati tanti, sporchi di catrame profondi e trasparenti. Nel vasto oceano c'è un posto per ognuno, non sono mai finite le rotte da tracciare. Il marinaio impara come si dice addio, e impara che la vita è una sequenza di commiati. Le navi arrivano e ripartono dal molo, mi fermo a salutare una vela in mezzo al mare. Vorrei poterti adesso raccontare di quello che ho provato solcando il mare, avere il tempo e il modo di parlarti di vento e stelle della prua della mia nave. Ma tutto ha un dubbio durante una tempesta, e quante volte ho immaginato quel momento. Adieu, mon capitaine adieu, c'è solo il cielo, il vuoto senza vento. C'è solo il cielo, il vuoto senza vento. Ora so che ogni nave ha una propria scia, diversa da ogni altra, con un disegno personale. Serve domandare dove ci può portare, ma il destino che si compie in un porto di mare. Ma ogni piroscafo insegue la sua rotta, ma le nostre erano diverse e lo si è capito troppo presto. Adieu, mon capitaine adieu, gli uccelli del mattino sono il canto dolce della terraferma. Vorrei poterti adesso raccontare di quello che ho provato solcando il mare, avere il tempo e il modo di parlarti di vento e stelle dalla prua della mia nave. Ma tutto ha un dubbio durante una tempesta, e quante volte ho immaginato quel momento. Adieu, mon capitaine adieu, c'è solo il cielo nel vuoto senza vento. C'è solo il cielo nel vuoto senza vento.